известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta, di Stefano Pistolini. Io credo che hai che spiegare al mondo intero che i militari cumplieron unicamente con una orden judicial. Si había informado che il presidente stava insistendo in fare un'inchiesta. Questa è una voce di Roberto Micheletti, presidente a interim dell'Honduras, dove le cose, tanto per farla breve, si stanno aggravando. Roberto Micheletti, il nome però andrebbe pronunciato su abitudine locale Micheletti, ed è stato paragonato da un inviato di Repubblica nel suo articolo, in cui riassume la preoccupante situazione nel paese centroamericano. Questo Micheletti gli ha fatto risuonare un Pinochetti, come sarebbe soprannominato in questo momento il presidente momentaneo dell'Honduras, Pinochetti, che sta naturalmente dalle parti di Pinochet. Sono nomi ed evocazioni piuttosto sinistre, che fanno capire come tutto si stia complicando in questo ore. Se è vero che l'amministrazione americana ha fatto sapere di aver interrotto le operazioni militari congiunte con l'Honduras per protestare contro il golpe militare che ha mandato in esilio il presidente Zelaya e ha mandato al potere, appunto, almeno per il momento, Micheletti. È il primo grosso guaio di questo genere che va in scena nell'America di Obama, in quello che viene chiamato il giardinetto di casa, no? Ovvero quelle repubbliche centroamericane su cui da sempre, inevitabilmente forse, ma sicuramente in modo non desiderato, non empatico, insomma, ma da sempre si allunga l'ombra del grande fratello statunitense. Quante volte abbiamo seguito storie di questo genere? Nicaragua piuttosto che Grenada, l'apparentemente tranquillo Caribe e l'assai turbolento Centro America sono sempre state traversate, scosse dalla volontà americana, la volontà americana in questo momento che lancia appelli ma si mantiene su posizioni attendiste a fronte di una situazione che, come dicevamo, si va complicando, perché in Honduras adesso è vietato manifestare, è vietato fare riunioni, si può essere arrestati in via preventiva senza giustificazioni. Sono tutte misure prese dal Parlamento di Tegucigalpa dopo che le manifestazioni del disegno opposto, ovvero manifestazioni in sostegno di Micheletti e manifestazioni in sostegno del presidente Zelaya, che invece ha riparato all'estero in Nicaragua, poi è andato alle Nazioni Unite e sta preparando questo rientro per sabato, l'ora X dell'Honduras. Ci sono state in diverse città dell'Honduras, 7 milioni e mezzo di abitanti, manifestazioni di sostegno per l'uno e per l'altro, e allora il governo pro tempore ha proibito tutto e ha messo in atto una situazione di allarme permanente. Il Parlamento ha anche approvato la sospensione provvisoria di numerose libertà costituzionali, la durata del coprifuoco esteso fino a tutto il fine settimana. Vi ricordo, sabato, dopodomani rientra Zelaya in patria. La restrizione parziale è stata proposta dal governo, autorizza a tenere persone in detenzione provvisoria per più di 24 ore, sospende garanzie come la libertà di associazione e di riunione e il diritto alla libera circolazione. Nonostante tutto, ieri nella capitale migliaia di manifestanti si sono mobilitati per una marcia pro Zelaya. I sostenitori di Micheletti invece hanno sfilato in città di provincia dopo l'abbozzo di apertura da parte del governo, tentativo di aprire il dialogo. Sono arrivate adesso queste decisioni più dure, si entra in una nuova fase. È partito anche un attacco deciso di Micheletti al presidente del Venezuela Hugo Chavez, accusato di essere la causa, di essere la mente dietro la evoluzione politica e gli sviluppi voluti da Zelaya negli ultimi tempi di governo. Vi ricordo che Zelaya è andato al governo come uomo conservatore, uomo di destra, uomo anche di un potere consolidato, ma poi progressivamente successivamente è slittato su posizioni bolivariane vicine appunto a quelle di Chavez, a quelle di Morales in Bolivia e naturalmente a quelle del grande ispiratore Fidel Castro. Tra l'altro è atterrato stamattina alle 8 in punto l'aereo che è in arrivo dall'Havana, ha portato a Malpensa gli italiani che erano in vacanza da quelle parti, sono stati richiamati a casa, sono stati accolti da parenti preoccupati e festanti. Loro, come sempre in questi casi, erano più inconsapevoli che consapevoli, stavano passando le vacanze, sono stati obbligati a rientrare, avevano capito qualcosa ma non tutto, probabilmente visti da vicino le cose assumono un aspetto meno aggravato, no? Come guardandole di lontano in questo crescendo di preoccupazione. Comunque, vacanze finite, tutti a casa, e a casa anche parecchi ambasciatori dell'Unione Europea. Tutti i paesi dell'Unione Europea hanno deciso di richiamare infatti rappresentanti in Honduras dopo la destituzione di Zelaya. Ne ha parlato ieri alla Radio Nazionale Spagnola il capo della diplomazia spagnola di Madrid, Miguel Ángel Moratinos. Ha detto che Germania, Italia, Francia, Spagna, Commissione Europea si sono consultati e hanno deciso di richiamare gli ambasciatori. Tutta la rappresentanza europea a Tegucigalpa sarà ora a livello inferiore. Credo si tratti di un segnale chiaro della posizione europea, ha detto ancora Moratinos, su cui le autorità provvisorie, sottolineando la parola provvisoria, dell'Honduras dovranno riflettere. Stati Uniti, è da lì che naturalmente si aspetta il passo decisivo, se verrà compiuto, per la decisione in un senso o nell'altro. Per ora sembra molto chiara l'atteggiamento di protezione che gli Stati Uniti stanno esercitando nei confronti del legittimo presidente, almeno a tutt'ora, dell'Honduras, anche se era stato indetto, vi ricordo, da Zelaya un referendum che voleva forzare la Costituzione nazionale e promuovere un nuovo mandato non previsto dalla Costituzione per permettergli di restare altri 4 anni al potere. Adesso peraltro Zelaya ha detto che se tornerà dal momento in cui tornerà in Honduras e nella speranza non venga sottoposto ad arresto immediato, come sostiene Micheletti, lui vuole soprattutto occuparsi dei suoi affari, dei suoi ricchi affari, perché è un uomo tra l'altro molto ricco. Gli Stati Uniti hanno detto che la decisione di Zelaya di rinviare il ritorno in Honduras di 72 ore fino a sabato è stata una saggia decisione. Questo intervallo di tempo, sostengono i diplomatici americani, potrebbe consentire di trovare una soluzione che però per ora non si profila. Il Parlamento rilancia le misure tese a mantenere persone, questa è un'agenzia di poco fa, in detenzione provvisoria per più di 24 ore, quindi in questo momento il pericolo è anche per le strade di Tegucigalpa, anche se gli inviati, chi manda articoli da quelle parti, dice che solo avvicinandosi ai palazzi del potere, del governo, si percepisce la situazione di emergenza nella quale ci si trova ora in quella nazione. TV e radio vicine a Zelaya hanno denunciato di essere state chiuse o comunque danneggiate dai militari che avrebbero realizzato il colpo di Stato. Tra media censurati ci sono i canali televisivi 36 e 50 e almeno una dozzina di stazioni radiofoniche, tra cui la celebre Radio Globo, che avrebbe ricevuto dei disturbi di messa in onda durante la presentazione di una intervista telefonica a Zelaya, anche se poi da parte del governo si è negato qualsiasi coinvolgimento. Nessun negoziato con l'Organizzazione degli Stati Americani, la comunità degli Stati Americani, per fare un raffronto, riguardo al ritorno in patria di Zelaya. Lo ha ribadito Micheletti, ha ribadito le proprie minacce a Zelaya: se tornerà verrà arrestato. Ormai siamo alle strette, mancano poche ore al momento in cui la situazione verrà forzata, con naturalmente la grande garanzia o comunque l'inevitabile presenza di chi è il garante di tutto ciò che accade nell'area, ovvero gli Stati Uniti. In parola garante naturalmente può essere interpretata in molti modi diversi e sono certo che ciascuno di voi avrà una lettura di questa parola. Un funzionario del Dipartimento di Stato americano ha precisato: restiamo in attesa che il segretario generale dell'OSA, José Miguel Insulza, concluda il suo compito diplomatico e ci consegni un rapporto entro il prossimo 6 luglio, quindi spingendo un po' più in là i termini di tempo, i termini di attesa. Si è in attesa di capire come andrà a finire questo dialogo nazionale avviato ieri dal deputato socialdemocratico German Letzlar, cercando di coinvolgere esponenti di tutti i settori sociali e politici, ma anche delle relazioni dei governi di America Latina. Si terrà conto, ha specificato ieri in particolare il presidente brasiliano Lula da Silva. Il golpe in Honduras è un precedente pericoloso per la comunità internazionale in generale. Naturalmente Barack Obama deve decidersi a prendere posizione sulla questione. In tanti insistono a ricordargli che in America non è più tempo di bananas, no? Come si dice, di quei governi che duravano il tempo di un colpo di Stato. Peraltro Barack Obama ha parecchie cose da fare in questi giorni, come sapete è in partenza per il G8, a margine del G8 tra l'altro sono stati sanciti, confermati incontri che Barack Obama avrà con Hu Jintao, ne parleremo tra poco con il nostro ospite Saro Capozzoli. Non sarà invece della partita Hillary Clinton, a cui continua a dare problemi quel braccio che si è rotto con una caduta qualche giorno or sono, per cui resterà dall'altra parte dell'oceano. Una notizia particolare è quella che nella visita a Mosca che terrà Obama prima di arrivare in Italia dal 6 all'8 luglio incontrerà anche l'ultimo presidente dell'Unione Sovietica, quando si chiamava ancora Unione Sovietica, Mikhail Gorbachev. È una serie di incontri informali che precederanno poi quello molto atteso con Medvedev. Ci sono segni di avvicinamento da parte della diplomazia russa nei confronti degli Stati Uniti, per cui è da seguire con particolare interesse questo incontro. Invece seguiamo per concludere l'apertura del programma un altro incontro molto più casuale, ma forse denso di una umanità diversa, che ieri Barack Obama ha avuto per le strade di Annandale in Virginia. I get food stamps, but that's it. And I'm just trying to figure out how I'm going to make it 9 years till I'm qualified to get my regular Social Security. Now that I have a new tumor and I have no way to treat it. Well, here, come on over here. First of all, we're going to find out what we'll get your information and we'll see what we can do to help you. E quando è il momento in cui un presidente scende un po' dal podio, ha trovato una donna che lo ha fermato per strada, gli ha cominciato a porre problemi tangibili, serio, una donna con dei problemi di salute molto gravi, gli ha detto di essere malata di cancro, di non essere in grado di curarsi, che cosa doveva fare. La grande riforma per la salute è in atto, ma intanto c'è chi sta morendo, chi vuole sapere come può essere aiutata dallo Stato. Obama ha avuto un momento di perplessità, di commozione, ha abbracciato la donna e poi ha usato questo incontro per parlare di Debbie Smith, la donna in questione, considerandolo un esempio perfetto di cosa significhi cadere oggi negli ingranaggi dell'attuale sistema sanitario americano, quello a cui lui si augura di porre rimedio con la grande campagna che sta portando avanti in questi mesi, ma che è tutt'altro altro che detto che arrivi a compimento. Potrebbe anche fallire, come fallì la coppia Clinton a suo tempo, tentativo di dare a 47 milioni di americani che non ne dispongono una assistenza sanitaria che, come in questo caso, in certi casi può dire anche potersi salvare la vita. Vedremo come finirà. Down easy. and see me with your big brown eyes. Come around to my place, you know I'll sympathize and we can go down. Insomma, il tempo è un po' tiranno, ma in questa fine di settimana che Jefferson vi tratteremo a British Folk, una musica colta di tempi andati, ma perché ci sono anniversari da festeggiare dalle parti dell'Island, un'etichetta che è una leggenda e la casa madre di un personaggio straordinario come il John Martin che stiamo ascoltando in sottofondo. E Go Down Easy era questo brano. Messaggi interessanti da parte vostra. Claudia dice: lasciamo gli ambasciatori a Teheran ma facciamo la voce grossa per salvare un furfante sudamericano. E la natura dei due personaggi è complessa, Zelaya e Micheletti. Capire veramente cosa sta succedendo è interessante. Cerchiamo di sospendere un attimo il giudizio e di capire le dinamiche in atto, oltre che cercare di seguire ovviamente questo ravvicinato succedersi di eventi in un paese come l'Honduras di oggi, che cartina tornasole di un cambiamento, di un passaggio dal XX al XXI secolo, che forse non è completato nel modo migliore, ma certamente è in atto e cerca di perfezionarsi in una zona del mondo che sta comunque camminando a doppia velocità. Ma anche altre notizie arrivano. 360 gradi, news dai punti sensibili del pianeta. Tutto si muove, i pezzi da 90 con la valigetta, no? Pronti per viaggiare. Esatto, perché tra un poco il centro del mondo sarà l'Aquila con il G8 che scatta la settimana prossima. Tu prima, Stefano, hai evocato uno dei nostri spiriti preferiti, quello di Saro Capozzoli, che tra pochi minuti si materializzerà almeno in voce. Ebbene, vi offro un altro assist per la conversazione che avrete, perché Ugin Tao sta per arrivare in Italia per una lunghissima visita, perché non solo sarà presente al G8, ma dal 5 di luglio, quindi da domenica, sarà ospite di fatto del Presidente della Repubblica Italiana, di Giorgio Napolitano, quindi la prima visita ufficiale in Italia di Ugin Tao, del Presidente cinese. Naturalmente non verrà solo Ugin Tao, perché sarà seguito da un codazzo di 300 imprenditori che saranno di vario taglio, ci saranno piccoli, medi imprenditori, anche grandi imprenditori, che verranno alcuni per la prima volta in Italia a cercare di fare affari. Poi la borsetta della spesa. Con la borsetta, forse su questo Saro avrà una versione un po' disincantata della situazione, forse non dobbiamo essere così convinti di fare grandissimi affari, non lo so, insomma, mi sbilancio su quello che Saro potrebbe avere. Avete qualcosa da vendere a Ugin Tao, insomma, cominciate ad organizzare il banchetto. Oh, scusatemi, io ci torno sopra, perché poi mi sembra che la notizia galleggia, non sparisce. Michael Jackson era dato per morto prima finché che non fanno i funerali, prima, non sparisce, ma lui. Secondo me era dato per morto prima, adesso è successo qualcosa si è mosso nella pancia dei mondiali, gli abitanti del mondo, perché artista globale come quello non so se se ne trova un altro. Allora noi siamo andati a seguire le tracce di un nostro piccolo pallino. Insomma, perché se c'è un momento postmoderno, più postmoderno degli altri, nel più postmoderno dei personaggi, dei grandi personaggi, dei protagonisti del pop di fine XX secolo, è quando è arrivato Bubbles. Bubbles, chi era Bubbles? Bubbles, immortalato da Jeff Koons, no? Nella famosa scultura sotto braccio, il suo padroncino era lo scimpanzé che ha raggiunto, come dire, il vertice della bizzarria jacksoniana, no? Il momento in cui veramente era come Caligola, faceva mangiare il cavallo. Michael Jackson faceva le conferenze stampa insieme alla sua scimmia, adesso tutti a riscoprire il grande significato trasgressivo del gesto. Ma noi volevamo sapere più che altro un'altra cosa: che fine avesse fatto Bubbles. Ebbene, la notizia in questo caso finalmente è ottima e allegra, perché Bubbles, mi dispiace per Jacko, ma ha seppellito il suo padrone, è sopravvissuto al suo padrone, e abbiamo scoperto che adesso è un vecchio signore, ha ben 26 anni e si è ritirato in un ospizio per scimmie, perché ne esistono in America, fanno cose anche di questo genere. Si chiama il Center for Great Apes, il centro per le grandi scimmie, e se volete andarlo a trovare si trova a Vaucula, Florida, dalle parti di Orlando. Era stato portato via da casa Jackson quando le cose andavano un se po' se non sbaglio gli diede un pugno in faccia un bel giorno e l'idillio finì improvvisamente. vabbè, aveva il suo, le sue ragioni, il suo carattere. E a proposito di Bananas, ne parlavamo alla fine del pezzo precedente parlando di Honduras, anche qua si conferma che mangia un sacco di banane. Whenever I get to feel this way, I had to find new words to say. I think about the bad old days we used to know. Nights of winter turn me cold, fears of dying, getting old. We ran the race was won by running slowly. Could be soon we'll cease to sound, slowly upstairs, faster down, then to revisit stony grounds we used to know. Remember mornings chilling spent, made no sense to leave the bed. The bad old days, they came and went, giving way to fruitful years. Efficacia e velocità sono queste le parole d'ordine della offensiva militare condotta dalle truppe americane, iniziata questa notte in Afghanistan. Coinvolge 4.000 soldati, 650 militari afghani in appoggio, e l'imperativo è agire bene e in fretta, lo dice lo stesso comando americano. L'obiettivo è liberare Helmand, la provincia meridionale dell'Afghanistan ritenuta ostaggio dei talebani, ripristinare la legalità in questa area che produce tra l'altro metà dell'oppio dell'Afghanistan. È un tentativo essenziale in vista soprattutto delle elezioni presidenziali del 20 agosto, ma naturalmente c'è chi non è d'accordo a questa operazione, e sono i talebani che tra l'altro hanno fatto sapere di aver catturato un militare americano e non conosce l'identità, non entra questa notizia in diretto contatto con l'operazione, con l'offensiva americana, anzi pare, c'è delle indiscrezioni, dicono addirittura che il militare sia stato colto in un momento in cui era brillo, era ubriaco, comunque c'è stata una imboscata, è stata circondata la sua macchina ed è stato sequestrato. I comandanti talebani fanno sapere di averlo sotto il loro controllo, e naturalmente anche su questa storia presto le notizie mentite e controsmentite si succederanno. Ma andiamo a parlare, come detto, come preannunciato, di Cina con Saro Capozzoli, che è in ascolto con noi, una volta tanto, non da Shanghai, ma direi dall'area di Arezzo. Dico bene, sì, Saro? Sì, sono in zona. Sei in zona, sei in viaggio di lavoro in Italia. Benvenuto a Jefferson. Saro, sì. Prima di tutto cominciamo subito con un tuo commento a questa notizia, no? A questa visita di Hu Jintao, che però porta con sé, come dire, il codazzo dei portafogli pieni in arrivo in Italia in cerca di business. Ormai sembra quasi una ricorrenza, no? questi aerei pieni di cinesi e di quattrini, e gli imprenditori di tutto il mondo che, come dire, preparano i banchetti. È un po' girata il pianeta come era prima. È così, che cosa dobbiamo aspettarci sia dalla visita di Hu Jintao sia da queste possibili prospettive commerciali, economiche? Beh, è una visita importante, certamente in concomitanza comunque col G8, il G14, il G20, come si chiamano, ecco, perché diciamo che a gradi diciamo si allarga questo incontro. E Hu Jintao, succede sempre, quando si muove sempre con, a volte sono anche due aerei che si spostano dalla Cina nei paesi che visita, sempre pieni di imprenditori, di ufficiali, del partito, ma in questo caso sarà una visita di business, né? Infatti ho saputo appunto che ci sono circa 120 aziende cinesi con quasi 3... Tra l'altro, Saro, è una visita piuttosto lunga quella di Hu Jintao, cioè per i canoni ormai dei grandi della terra si trattiene in Italia per un periodo piuttosto lungo. Sì, diciamo che l'Italia lui associerà al business, cioè alla politica, agli affari, anche un po' di turismo, ecco, perché certo. Ecco, i cinesi amano molto l'Italia dal punto di vista turistico, ecco, la vedono in televisione, nei film, eccetera. E diciamo comunque che è l'ultimo paese il nostro, dopo una lunga serie di paesi visitati dai cinesi, si parlava appunto della Germania, la Svizzera, l'Inghilterra, la Spagna, l'Italia adesso, notate, non la Francia. Certo. Infatti, cattivi rapporti che esistono fra i due governi, ecco, sono sempre ferri corti, e adesso è un momento questo per l'Italia per mostrare il meglio di sé, ecco, quello che è il segnale che vorrei lanciare, perché loro vengono appunto qui con buone intenzioni, ovviamente verranno a fare, cercando di fare affari. Ho saputo anche che molti cercano... Ma Saro, dacci il segreto dell'acqua calda, non so che, ma come si fa a presentarsi? Tasto su cui insisto è che non si può approcciare a questo tipo di incontri proponendo sempre aziende da comprare, da comprare o comunque da liquidare aziende con problemi. Cioè, certo. Adesso sembra che quando un'azienda ha un problema in Italia ha una... La passiamo ai cinesi. Ecco, bisogna chiamare i cinesi. Una volta si chiamavano gli americani, no? Arrivava il settimo cavalleggeri, adesso arrivano i cinesi. È sbagliato, perché si dà un messaggio sbagliato, secondo me, ai cinesi. Bisogna proporre un po' qualche perla, qualche cosa di interessante, sempre parlando di materie prime. Che cosa? Beh, noi abbiamo un'azienda petrolifera molto grande, i cinesi sono sicuro che avrebbero molto piacere di poter entrare e partecipare. Abbiamo delle grandi aziende noi, importantissime, statali e non statali. Ed è questo secondo me che bisognerebbe proporre ai cinesi, per poi andare a parlare anche di problemi, ecco. Però quello che continuo a ricevere informazioni stando in Cina, stando anche qui in Italia, sono due settimane che sono in Italia, si continua a proporre ai cinesi: sì, questa azienda ha X milioni di debiti, questi li portiamo via, li scorporiamo, diamo la parte buona ai cinesi, ecco. Però questo è un segnale negativo, che sembra quasi come se noi dessimo, vogliamo risolvere i nostri problemi, che sono problemi di gestione, facendo festa ai cinesi. Ecco, e infatti poi si aggiungono altri problemi, perché poi i cinesi, poi bisogna capire come poi gestiranno queste imprese, certo, non avendo dei cinesi di alto livello qui in Cina, in Italia, mentre in Spagna o in Francia o in Inghilterra sforano decine di migliaia di laureati cinesi ogni anno. Questo, certo, bisogna ricordarlo, certo, che possono essere inseriti in queste aziende. Chi ci mettiamo qui? Ecco. Senti Saro, c'è una testa di ponte interessante riguardo ai rapporti, al miglioramento dei rapporti, non solo commerciali, culturali e quant'altro, tra Italia e Cina, che è naturalmente l'Expo di Shanghai, e all'interno dell'Expo di Shanghai anche alcune iniziative che l'Italia sta prendendo, e nella fattispecie alcune città come Venezia e Bologna, le due città italiane che avranno uno stand in una prestigiosa sezione dell'Expo di Shanghai che si chiama Urban Best Practices Area. Manca Milano, la città che raccoglie il testimone da Shanghai per l'Expo. Come funziona questa strana assenza? Che cosa se ne può dire? Diciamo i cinesi sono rimasti molto sconcertati a questa assenza, perché hanno molto spinto questa partecipazione, che era qualcosa di naturale. La città che ospiterà l'Expo la prossima edizione nel 2015 sarà Milano, e so che sono state fatte delle aperture, offerte terreni, offerta anche di costruire il capannone, di costruire il padiglione, eccetera. Purtroppo, da quello che ho capito, c'è stato qualche cosa che si è inceppato a Milano, probabilmente non si capire chi dovesse decidere su questa cosa, e i cinesi non è che possono aspettare, hanno dato una data entro il 30 di giugno per partire con la costruzione dei vari padiglioni. Quindi la data è già trascorsa, è già scaduta. qui partire con la costruzione voleva dire mesi e mesi di lavoro prima, con l'ingegneria per la costruzione, ecco, quindi siamo in ritardo. Quello che ho saputo sembra che appunto abbiano proposto all'Italia, dato che non sembra, cioè al Milano, dato che forse non c'è spazio più nel padiglione italiano, che è stato ben fatto e ben organizzato, ovviamente ben pieno adesso, ormai a questo punto, abbiamo offerto all'ingresso uno striscione Milano, visitate Milano, ecco, questo mi sembra veramente una cosa per una città come Milano un po'... Certo, riduttiva e anche un po' preoccupante, ma abbiamo in linea anche, Saro, resti in ascolto, perché abbiamo in linea anche Laura Fincato, che è l'assessore ai lavori pubblici a Venezia, tra l'altro con delega a questa partecipazione, alla presenza di Venezia all'Expo di Shanghai. Buon pomeriggio, Fincato. Buon pomeriggio a tutti quanti voi. Quindi Venezia ci è arrivata, abbiamo qui anche davanti un plastico, una presentazione computerizzata del vostro padiglione. Cosa andate a fare alla Expo 2010? Che cosa mettete in mostra e perché di Venezia? Allora, cominciamo subito con il dire che la nostra candidatura è stata proposta nella sezione che è titolata così, certo, Better City, Better Life, ma soprattutto per i nostri argomenti la riutilizzazione del nostro grande, enorme, parlando di Venezia, patrimonio storico e culturale, le trasformazioni che rendono moderna una città. E primo caso, Venezia ha potuto portare, perché la selezione prevedeva un esempio per appunto questo tipo di sezione, noi abbiamo portato esempi, i cinesi intanto chiedevano esempi di realizzazione e non disegni futuri, chiariamoci subito, molto concreti, esempi di come questa città si sia trasformata nel corso dei secoli, abbia trasformato le proprie funzioni. Esempio per tutti, l'arsenale, il luogo della potenza marinara della Repubblica Serenissima, oggi sede della Biennale, sede dei capannoni e dove si fa ricerca per il Mose. Certo, quindi da una Venezia storica a una elaborazione del modello in chiave futuribile. Insomma. Esatto, e per esempio non solamente voglio dire la storia della Repubblica, ma la storia del Novecento industriale, il recupero di Porto Marghera per portualità, logistica, ricerca, il recupero, sentivo che parlavate di rapporti culturali e di formazione, il recupero di un'isola che è stata fino al Novecento sede di ospedali, in questo caso ospedale anche psichiatrico, l'isola di San Servolo, che oggi è sede della università internazionale, la Venice International University, esempio appunto di rapporti di scambi con la Cina, perché sono stati formati circa 3.500 studenti, certo attraverso anche il grande ruolo di Ca' Foscari, che ha la sezione delle lingue orientali, in modo particolare il cinese. Certo. E in quest'isola verrà realizzato un giardino cinese, perché Venezia è gemellata con la città di Suzhou, e in questa isola sono presenti adesso forme artistiche, perché è in corso la Biennale. Ho avuto il piacere di vedere l'isola ed è un posto straordinario, credo che veramente un posto di eccellenza anche accademica. Confindustria, Ca' Foscari, casinò tra i partecipanti alla spedizione, vero? La prima cosa che abbiamo fatto è stata quella di mettere in piedi un comitato diciamo istituzionale, di cui poi l'amministrazione comunale e io per delega del sindaco siamo solamente case coordinator nei confronti di Shanghai. Mettere insieme, cioè l'Unione Industriali, l'API, la Camera di Commercio, il Casinò, la Fondazione di Venezia, per presentare che cosa? Uno, il nostro padiglione. Noi abbiamo 500 metri quadrati, dove rappresenteremo fisicamente Venezia e attraverso la porta di Venezia le eccellenze di questo territorio. Secondo, e ancora più importante per questo territorio, in un rapporto anche con la regione, con la, diciamo, l'esperienza dei distretti, presentiamo la nostra economia e quindi missioni economiche che si terranno su temi e su argomenti specifici, dalla portualità alla logistica, al bello, al lusso, alla cantieristica, alle nostre scarpe, ai nostri tessuti, quindi una pluralità di iniziative che hanno questo scopo, attraverso Porta Venezia, con diciamo, il peso che ha questo nome e questa storia, specialmente nell'immaginario collettivo cinese, offrirci a questi 70 milioni di visitatori, certo, ma anche offrirci agli investitori. Va bene, grazie a Laura Fincato, mi sembra un'iniziativa con un progetto e delle basi assai solide. E dunque dovremmo avere ancora in collegamento Saro, ci sei Saro? Sì, sono qua. Mi sembra che per come ci è stato presentato dall'assessore ai lavori pubblici di Venezia, Laura Fincato, questo progetto di partecipazione alla Expo di Shanghai della città di Venezia sia, come dire, inquadrato in un modo interessante, no? Anche questa idea di distinguere nella particolarità poi di Venezia, e rivolgendosi a un mercato interessante come quello cinese, la progettualità culturale ma anche poi finanziaria e commerciale Venezia, dal vendere il parco a tema Venezia, no? Quello delle gondolette, del turismo di massa, mi sembra sia pensato in un modo piuttosto sofisticato, ma è sufficiente, basta, può essere compreso secondo te uno stile di questo genere dal pubblico dei visitatori e naturalmente degli addetti ai lavori? Certamente è un ottimo biglietto da visita ed è, secondo me, è stata una scelta vincente questa. Poi associandolo anche a Bologna, che poi diciamo l'altra città che parteciperà e che rappresenta la meccanica, rappresenta appunto, io ho un legame particolare con le aziende bolognesi, diciamo tutta quella parte produttiva italiana che sarà presente lì, rappresentata dalla grande città. La cosa geniale è stata anche di portare il casinò l'idea appunto di portare il casinò di Venezia in Cina, dato che è quello il punto, diciamo, che è lo stimolo che fa molte volte muovere il turista cinese. Ah sì, eh? Sì. Infatti hanno un'intera Macao di casinò. Infatti, è strano, Malta, che è piena di casinò, ecco, è piena di cinesi, addirittura arrivano con charter apposta per andare lì a giocare e tornano poi dopo a Shanghai, proprio perché sono dei grandi amatori del sport, e tipo si associa poi il fatto che Venezia sia una città più nota in Cina. E vi dico una cosa, può sembrare strano, ma anche Napoli è molto, molto nota in Cina, perché a scuola, addirittura alle elementari, insegnano Pompei, quello che è successo a Pompei. Quindi nell'immaginario collettivo appunto cinese, Venezia e Napoli con il Vesuvio sono i due simboli d'Italia. Quindi dato che manca Napoli, comunque Venezia ha fatto un grande lavoro, e anzi spero che ci siano anche aziende venete italiane che sponsorizzino questa iniziativa, perché veramente hanno bisogno secondo me di essere valorizzate queste cose, perché portano il nostro nome nel migliore modo, ecco. Quindi sembra che tu pensi, sei convinto che quasi il progetto città, nella sua diversità, così nelle peculiarità italiane così particolari, sia quasi più vincente, no, di un portfolio nazionale, può essere così? Sì. Infatti perché noi l'Italia è un po', ripeto, è conosciuta per stereotipi, no? Non è conosciuta per la pizza, è conosciuta per Venezia, perché la pizza sono convinti che è fatta in America, no? Certo. Ecco, perché sono un grande produttore, sono catene americane, e la pizza penso che sia stata inventata dagli americani, come il caffè espresso sia stato fatto dagli americani, no? Ecco, quindi diciamo che è importante partire dalla cultura, dalla storia che è studiata a scuola molto seriamente, e per far conoscere i nostri prodotti, i nostri marchi più importanti, ecco. Quindi una bella iniziativa, e poi ripeto, accomunata con, io ripeto, è una cosa che mi piace molto questa, anche se non sono un giocatore, però so che i cinesi quando si muovono molto legati anche al gioco d'azzardo, no? Loro sono dei grandi scommettitori quando perdono anche se perdono sono contenti, hanno avuto l'ebbrezza di poter vincere. Vedremo se il casino di Venezia, che poi ha avuto anche di recente tempi difficili, tempi duri, potrà avere una boccata d'ossigeno da questa infornata di giocatori cinesi. Secondo me dovrebbero alzare un po' la tecnologia del gioco, no? Adeguarla un po' agli standard contemporanei, americani magari, ma comunque è un punto di vista interessante. Grazie a Saro Capozzoli, anche oggi ospite qui a Jefferson 2, l'arte della svolta. Io sono Stefano Pistolini, in redazione c'è Milano Enrico, in regia Alessandro Chiappini a Roma e Filippo Aureggi a Milano. La mail è jefferson2 e radio24.it. Su Facebook le solite pagine sono redazione Jefferson 2 e Jefferson 2 Radio 24 Express Yourself. La puntata a mezzanotte va in replica, altrimenti vi aspettiamo domani dopo le 4 qui su Radio 24. Ci sentiamo. 社会本来就是这样，被误会又怎样，被伤心又怎样，玩不起这游戏的人就请靠边站。狗狗嗅觉非常灵敏，可以闻到很多东西，却又色盲，黑白分辨不清，观众也就跟着相信。最重要的是对得起自己，不变的道理，高手过招，戴着面具显得活得动静生硬。我回家去打坐取舍，生养性沉默的人最聪明，不